Euroreportage. Sarajevo, tra le bombe del passato e gli ostacoli del presente, di Claudia Vanni. Se tra i paesi occidentali l'Europa perde appeal, ad est c'è chi la vede ancora come un sogno. Ucraini in primis, lo dimostrano le ribellioni tra le strade di Kiev delle scorse settimane. Mentre il premier Yanukovych girava le spalle all'accordo per un'area di libero scambio con l'Unione, avvicinandosi piuttosto a Putin e alle sue riserve di gas, i cittadini protestavano per non rinunciare al miraggio europeo. Intanto nella regione orientale d'Europa sono molti paesi che stanno progredendo verso l'ingresso nell'Unione, come spiega Peter Stano, portavoce della Commissione europea. Croatia entered the European Union this summer. La Croazia ha appena fatto il suo ingresso. Montenegro e Serbia hanno avviato le negoziazioni, perfino col Kosovo stiamo discutendo per l'accordo di stabilizzazione e associazione. Ma la Bosnia-Erzegovina non sta progredendo a causa dell'inabilità dei leader politici del paese a raggiungere un accordo per rimuovere le discriminazioni dalla Costituzione. Nell'ultimo incontro abbiamo discusso 16 ore con i rappresentanti politici. Non è perché lo chiede Bruxelles, ma perché il paese ne ha bisogno e i cittadini chiedono una prospettiva europea. Il ricordo della guerra civile bosniaca degli anni 90 rimane l'ostacolo principale per la riconciliazione del paese, soprattutto tra chi quel conflitto lo porta sulla pelle, come Mirela. Aveva un anno e mezzo quando è partita per la Spagna in cerca di cure mediche per il suo braccio, martoriato dal fuoco degli scontri. La guerra, per questo dobbiamo andare in Spagna. Oggi rimangono solo cicatrici marcate ed evidenti che non riescono comunque a togliere il sorriso alla ragazza. Bionda, coi capelli lunghi, ho incontrato Mirela lungo le grandi vie che entrano in Sarajevo. Rientrata in Bosnia quando era ancora bambina, ora ha 21 anni e studia lingue. Mi spiega che nel paese sono molti gli studenti che hanno scelto il suo stesso percorso universitario. L'alternativa è giurisprudenza, il resto punta ad una carriera televisiva. Il lavoro artigianale industriale poi non offre molte opportunità. Sono sempre di più gli impianti coi battenti chiusi e anche il turismo non decolla. E ai problemi economici si aggiungono quelli sociali. Sono ancora profonde le divergenze tra le varie etnie e la convivenza rimane difficile. La gente te guarda da un'altra maniera. Dalla fine della guerra 20 anni fa poco è cambiato e i proiettili ancora presenti nei muri dei palazzi stanno lì a ricordarlo. La Bosnia ed Erzegovina viene riconosciuta ufficialmente con gli accordi di Dayton del 1995. Due aree ben distinte, la Federazione Croato-Musulmana e la Repubblica Serba della Bosnia. Con quell'atto venne stabilita anche la presidenza collegiale, da allora un serbo, un croato e un musulmano. A turno ogni 8 mesi si alternano nella carica di presidente, un sistema che ha condannato il paese ad un'immobilità che dura da decenni. Scarse le tracce di una programmazione economica ed è ancora forte la dipendenza dal Fondo Monetario Internazionale, come spiega Salmir Kaplan, ministro della Cultura e dello Sport della Federazione della Bosnia ed Erzegovina. Non sono sicuro che si possa andare avanti in questo modo. E poi resta irrisolta la questione etnica. Molte persone in Bosnia ed Erzegovina pensano che l'esistenza di queste differenze etniche sia il problema. Non è il problema. La peggior cosa è che la componente liberale nazionale crede che queste tre etnie siano un ostacolo. Il Partito Liberale nelle elezioni amministrative di Mostar ha creato una lista con 30 iscritti. Erano tutti solo bosniaci. E proprio Mostar è una delle città simbolo delle divisioni. La cittadina è caratterizzata da un ponte, lo Stari Mostar. Bombardato e distrutto durante il conflitto serbo e ricostruito negli anni 2000, demarca nettamente le differenze religiose e culturali. Perfino nella nazionale di calcio si sentono le divergenze. Della squadra non fa parte nessun serbo bosniaco. Magari se ne parlerà in occasione dei mondiali in Brasile 2014. La Bosnia-Erzegovina parteciperà infatti per la prima volta nella storia. Intanto in queste settimane, dopo 22 anni, è stato avviato il primo censimento. Le operazioni in corso evidenzieranno i cambiamenti nella distribuzione territoriale della popolazione, causati dal conflitto del 92-95 che fece oltre 100.000 morti e più di 2 milioni di profughi, come ricorda Lidia. Non è facile vivere in Sarajevo quando tu sei un croato e anche non è facile vivere in Međugorje quando tu sei un musulmano. È troppo difficile anche dirci il tuo nome. Io non ho sentito queste cose perché il mio nome è Lidia, non si capisce. Io sono cattolica o musulmana perché Lidia è un internazionale nome. Ma quando tu sei Ivana in Sarajevo è difficile. Perché? Perché tutti ti guardano come una croata e tu non riesco a trovare lavoro. In scuola tu hai sicuro i problemi, queste cose, e anche nostra lingua è una, è croata, ma adesso i musulmani volevano lingua da loro e chiamano bosniaca, ma parole sono proprio uguali, il dialetto è un po' differente, ma tutti volevano una cosa da... solo per loro, come musulmani, come cattolici o croati. I croati sono 90% cattolici. In tutte le parti da Bosnia e Erzegovina, posso anche dire in più in Bosnia, perché guerra si anche oggi si sente lì, perché in Bosnia sono 80% dai musulmani, altri sono croati e protestanti, e tutti insieme, non lo so quanti anni devo passare, possono vivere insieme, perché guerra è un grande dolore per noi, anche adesso, perché tutti da noi, croati, musulmani, protestanti, tutti siamo persi le nostre care persone in questa guerra. Per esempio il mio marito e io abbiamo tutte due differenti cose, come guardiamo le nostre vite e come parliamo con persone, perché lui ha perso la papà in guerra, il momento quando è perso la papà lui ha 10 anni. E lui ha visto tutte queste cose e non puoi dimenticare. Guardo su queste cose, noi non possiamo parlare dai tutti i musulmani e tutti gli altri che non sono cattolici, sono tutti brutti, perché anche i croati sono fatti tante brutte cose nella guerra. Tu che cosa ricordi della guerra personalmente? Io ricordo tante cose perché in questo tempo io sono 7 anni, io ce l'ho in questo tempo da guerra. E mi ricordo questi pistoli, boom boom boom, però io non ho visto, ma sentito. E siamo sentiti tante bruttissime cose da fuori e sono entrati in nostre case maschi che noi non conosciamo e sono detti di noi subito che dobbiamo lasciare le nostre case. Tu hai figli? Sì, io ce li ho 2 figli. No. Sì. Che cosa speri per te e per loro? Io spero che anche loro andavano dal Bosnia-Herzegovina. Per loro, io lo so, è l'unica cosa che possono fare per andare, non lo so, in America o in Canada. Non c'è tanto futuro. Io sono giornalista, non voglio lavorare più come giornalista perché io ho visto che non c'è tanta libertà. Perché tante volte io volevo dirle una cosa e subito quando io ce l'ho notizia, io non posso parlare. Poi c'è chi, come Allen, è emigrato in Italia durante la guerra, ma ora ha deciso di tornare in patria. I miei sono rimasti tutti e due senza lavoro. Qui c'era un sacerdote che veniva a dormire dalla nonna, veniva spesso, diciamo, durante l'anno, e ci ha proposto di venire in Italia. Ne abbiamo approfittato, i miei ne hanno approfittato e sono andati via. Iniziavano a portare le armi nell'azienda dove lavorava appunto mio padre e mia madre. Quando hai deciso di tornare in Bosnia? 2 anni fa ho ceduto le mie 2 attività che avevo e così per curiosità, per vedere un po' come si vive da queste parti. Qui ti viene meno il mal di testa, diciamo, e sono meno tasse. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.